Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E sentiamo il nostro Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Bug's Life, vita da insetti, e ho fatto ascoltare un po' di colonna sonora da questo film della Pixar, e in effetti una volta dicevamo vita da cani, adesso è il caso di dirlo, vita da insetti, perché ormai gli insetti vengono divorati dagli esseri umani. Vi ho raccontato di questi 7 ristoranti a New York citati dal New York Magazine, e poi ho fatto una chiacchierata col ministro Martina chiedendogli se anche lui, come succede in questi ristoranti, mangiava ogni tanto formiche o scarafaggi, ma ha detto che in realtà lui preferiva un piatto di pasta. E gli etologi americani stanno puntando su regimi alimentari a base proteica. E quindi più insetti e meno pasta, come dire. E torno un po' più nel dettaglio per raccontarvi che cosa mangiano in questi ristoranti a New York. Mangiano le cavallette, mangiano le larve, le locuste fritte, i bachi da seta, le formiche, gli scarafaggi, insomma di tutto. E allora Black Ant, per esempio, formica nera, la sua specialità è le cavallette in salsa messicana. Earns Thai Chicken, larve e locuste fritte con soia e peperoncino. Ecco, devo dire, forse sono anche dei piatti prelibati. In questo caso, devo dire, non costano neanche troppo cari, perché le cavallette in salsa messicana, per esempio, vanno a $14. Però non è soltanto qui a New York che ha preso piede questa moda alimentare, diciamo, di nutrirsi di insetti, ma anche in Europa, a parte l'Oriente naturalmente. In Europa, per esempio, Noma, grande ristorante di Copenaghen, anzi addirittura il miglior ristorante del mondo secondo il concorso San Pellegrino per vari anni di fila, serve, e questa è una creazione dello chef di René Rezzeppi, serve formiche vive, pensate, formiche vive con una crema a base di yogurt. Di che cosa sanno queste formiche? Beh, sanno il sapore di citronella, perché vengono nutrite per vari mesi proprio con la citronella. E l'articolo del New York Magazine però ha un taglio che non è soltanto così spiritoso, diciamo, perché in effetti noi potremmo essere sorpresi dall'idea di mangiare, divorare questi insetti, ma c'è un'argomentazione anche economica, e cioè che gli insetti in realtà rappresentano davvero, cucinati in un certo modo, mangiati in un certo modo, una possibilità di uscita dal rischio di crisi di carestia quando saremo in 9 miliardi di persone attorno al mondo. Ci sono degli studi anche alle Nazioni Unite, pensate che una porzione di cavallette ha le stesse proteine del pollo o del manzo, però ci sono meno grassi e più calcio, quindi sono dei cibi molto molto sani, e dunque la tendenza che nasce a New York forse avrà un futuro. Mangiare insetti poi sono tradizioni profondamente radicate un po' dappertutto nel mondo, non solo in Oriente. Nella regione di Oaxaca in Messico, per esempio, si mangiano scarafaggi e scorpioni neri. Ecco, io ho con me un esperto di gastronomia, Paolo Valentino, grande inviato del Corriere della Sera, che oltre ad essere uno dei grandi inviati di politica estera del giornale, e si è appassionato di gastronomia e di cucina, ed è stato, beato lui, nei migliori ristoranti del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, alla stessa Copenaghen. Paolo, buongiorno. Buongiorno Mario. Allora, buongiorno. Ma Paolo, ma tu sei stato stato da Rezzeppi, ho gustato le sue formiche, che in effetti hanno questo sapore acidulo, che per il momento è soprattutto uno statement, diciamo, di carattere culturale, perché dicevi bene, al di là delle facili battute, gli insetti rappresentano, secondo tutti gli studi delle Nazioni Unite, una delle grandi frontiere per risolvere il problema dell'alimentazione mondiale quando la popolazione del pianeta esploderà, ovviamente. Ecco, Paolo, però raccontaci, perché io devo dirti, le formiche non le ho mangiate ancora, E devo dirti anche che mi fa una certa impressione questa idea di, così, di mangiare una formica oppure uno scarafaggio, sentire lo scarafaggio che si rompe. E insomma, siamo abituati a altri suoni, no? Quando lo schiacci magari per farlo fuori. E dunque, al di là del gusto, che mi interessa sapere se era un gusto gradevole o no, ma hai avuto un po' di impressione? All'inizio sì, però intanto dal punto di vista del rumore non mi sembra niente di nuovo, perché quando mangi un bel fritto croccante senti un crick, quindi non è che il fatto di sgranocchiare qualcosa comporti una, diciamo, una fonetica completamente diversa. Primo. Beh, ma è una questione di abitudine, diciamo, se io so che sto schiacciando. È una questione di abitudine, è una questione culturale. Ovviamente, quindi ti può fare anche impressione. Dopodiché, quando mangi queste formiche in questa ottima salsa fatta di yogurt e aromi di verdure, con questo il sapore acidulo che hanno in fondo, appunto, per l'erba citronella di cui vengono nutrite per 6 mesi, alla fine è una sensazione, diciamo, nuova ma assolutamente plausibile. Io, fra l'altro, volevo dirti che a Washington, per esempio, ho provato anche insieme ai miei figli dei grilli fritti che erano assolutamente squisiti. Ecco Paolo, ma perché un cuoco internazionale mette le formiche vive? Cioè, per fare sensazione? Perché... No, io credo che ci sia uno statement culturale importante. Intanto René Redzepi si ispira a un altro grande cuoco, che è Alex Atala, brasiliano del Dom di San Paolo. Questo è uno dei cibi con cui nei prossimi anni dovremo misurarci. Io, che sono un grande cuoco, provo a farne una versione già appetibile e servibile anche in un ristorante di lusso. Ecco, Paolo, quando ho chiesto al ministro se lui, come dire, aveva, il nostro ministro Martina dell'agricoltura, se lui aveva assaggiato scarafaggio o cose simili, e lui ha detto no, dice guarda, io veramente preferisco ancora un piatto di spaghetti. Domanda, tu sei anche un grande cuoco, perché, ma tu ti stai magari preparando, potremmo trovare un compromesso, non so, una ricetta, uno spaghetto allo scarafaggio, per esempio? No, non l'ho ancora preparato, però potrebbe essere una buona soluzione. Fra l'altro, credo che dovremmo usare delle formiche mediterranee, che avranno sicuramente una loro salinità diversa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di insetti, quindi restiamo in tema con questa canzone dei Pearl Jam. Red Mosquito. York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!